Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Al martedì, come sempre, ci ritroviamo con un appuntamento consueto, quello insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi un argomento che ci porta nella città di Treviso. Parliamo un po' di cose che capitano? Sì, come detto Francesco, ci siamo portati nella provincia di Treviso perché l'Adico, che ha una valenza soprattutto regionale, ha voluto dedicarsi un pochino alla provincia di Treviso proprio per dare anche attenzione a quelle che sono le persone che si rivolgono a noi e valutare quali che sono un po' le principali tematiche che abbiamo gestito come Adico nel 2014. E dobbiamo dire che nella provincia di Treviso abbiamo avuto 350 interventi come associazione dei consumatori che si sono diversificati un po' in tutti gli ambiti, di cui comunque possiamo dare anche dei dati, delle percentuali su quelli che sono stati un po' gli interventi più significativi. È interessante questa cosa, andare a vedere un po' provincia per provincia magari cosa sono le cose che capitano più da una parte piuttosto che dall'altra. Sì, è vero che innanzitutto rispetto all'anno passato abbiamo avuto un aumento del 20% delle problematiche che riguardano le bollette in particolar modo, e siamo contenti anche di aver avuto un incremento del 5% di iscritti. Per quanto riguarda le bollette, Francesco, bisogna ricordare come i problemi principali che hanno riguardato quasi il 50% dei nostri iscritti, che ha avuto a che fare proprio con problematiche che chiunque di noi potrebbe capitare. E quando parliamo di bollette dobbiamo pensare alla domiciliazione errata, dobbiamo pensare ai conguagli stratosferici, dobbiamo immaginarsi di persone che senza motivo si sono trovati morosi o messi in mora, oppure staccate addirittura dall'utenza al buio, di non avere più energia elettrica o addirittura al freddo d'inverno. E questi casi, come detto, purtroppo sono anche cresciuti rispetto all'anno precedente, e le compagnie, purtroppo quelle a cui noi abbiamo puntato il dito, sono anche quelle che conosciamo e che malgrado anche a volte hanno dei nomi importanti, non sempre significa che queste siano sinonimo di garanzia e di servizio, perché poi scopriamo che la difficoltà che hanno queste persone è quella di rivolgersi anche al call center o interloquire con qualcuno che dall'altra parte magari risponde alla parte opposta del globo terrestre e che sostanzialmente non ci può essere di grande aiuto se non raccoglie delle segnalazioni che poi rimangono lì. E sappiamo che insomma ci sono questi centralini che sono posti anche in altri paesi proprio, e che mettono anche un po' in difficoltà, se vogliamo, magari sono anche preparati poveretti dall'altra parte del telefono, però c'è anche una difficoltà di linguaggio, no? Nel capire le persone. Immaginiamo magari quello che non parla proprio correttamente l'italiano ma il dialetto veneto, e c'è già lì un po' di incomprensione, no? Guarda, ti do due dati veloci. Uno scritto trevigiano ogni tre si è rivolto alla nostra associazione per contestare una bolletta, con un aumento del 19% sul 2013. Nel 65% dei casi abbiamo conguagli esorbitanti, che sono definite bollette pazze o importi ritenuti non congrui. Le richieste di aiuti per distacchi di luce e gas sono aumentate del 15% e abbiamo avuto un incremento, come abbiamo detto, inizialmente del 5% rispetto all'anno precedente. Poi abbiamo avuto anche un caso su 10 invece si è rivolto alla nostra associazione per problemi con Poste, in particolar modo Poste Pay, clonazione della carta e tassi di interesse sui buoni fruttifero. Mentre nel 2014 si è registrato anche un boom di richieste di assistenza per problemi di acquisto di auto usate o nuove. Sì. Abbiamo avuto casi di tachimetri taroccati, motori non originali, prezzi gonfiati, difetti di fabbrica, e nuovo non consegnato in termini congrui. Abbiamo avuto 16 casi con un aumento circa dell'8% su quelli che sono state delle tematiche analoghe in cui ci eravamo occupati l'anno precedente. Problemi di tutti i giorni anche nella provincia di Treviso. Poi evidentemente se in una provincia c'è un'azienda che inizia a fare bollette pazze, ovviamente ci saranno delle percentuali superiori da quella parte piuttosto che da un'altra, dove c'è un'altra di azienda che magari questi errori non li fa. Insomma, cosa è successo nel caso delle famose bollette pazze? Siete riusciti ad arrivare ad una soluzione positiva? Sì, allora noi abbiamo una percentuale di chiusura positiva della pratica dell'86% come Adico, e questa è una percentuale che a noi ci stimola anche a continuare a migliorare, perché certamente non si poteva arrivare al 100%, ma ti fa capire come alla fine siamo riusciti a concludere un po' tutte quelle che erano le problematiche variegate inerente alle bollette. Però quello che mi preme anche Francesco dire, l'Adico poi si è distinta anche per altri due aree di intervento particolari. Abbiamo avuto un 25% di richieste su quelle che sono state problematiche legate agli sportelli che abbiamo istituito negli anni scorsi, come le problematiche legate ai sfratti e condominio, ai debiti e crediti, alle vacanze rovinate, al ritiro patente per abuso d'alcol, al risarcimento danni per episodi di mala sanità, e questo ci ha visto anche, come detto, ci ha occupato per un 25% delle pratiche generali. Poi abbiamo un'area dedicata a progetti speciali, e qua ci sono riferite il 22% delle segnalazioni trevigiane, di cui il 45% è riconducibile al progetto amministratore di sostegno, che serve appunto per tutelare gli interessi del congiunto non più autosufficiente. Un altro 40% che riguarda le problematiche legate al testamento e alle successioni, che offre assistenza alla redazione del testamento, rinuncia all'eredità, alla compilazione della dichiarazione di successione, alla voltura, alla cessazione dei contratti intestati a persone che magari decedono, o anche chi magari in occasione della morte abbiamo avuto dei figli che non hanno voluto accolarsi i debiti, perché a volte oggi bisogna anche pensare che quando si parla di eredità ci potrebbero essere anche dei debiti. E poi abbiamo avuto anche i primi casi, circa una decina di persone che si sono rivolte all'ultima novità che ha proposto l'Adico, che è lo sportello separazione divorzio consensuale. E quindi, insomma, veramente coprite 360 gradi delle problematiche della vita normale. Ricordo associazionedifesaconsumatori.it, il vostro sito. Grazie al presidente Carlo Garofolini, ci sentiamo tra un paio di giorni. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.